fa a cacciar via da noi spasmi di una ipotetica isola dentro la mente, qualcosa che non ha confini ma si vuol frenare per poterla vivere interamente. Amori di ripasto che l'orgoglio tiene stretto a sé e li racchiude in una serratura ermetica. Solo una chiave li aprirà, ma quando fuori li fa scappar, in un mare di indecisioni vanno ad annaspar. Come si fa? Pazienza di voler capire, sedativo precoce delle curiosità. Come si fa, come si fa a poter resistere agli stimoli della competitività, nel voler scavalcare ogni volta le potenti onde di quel grande mar, dove l'ingorghi d'acqua son l'ambiguità. Come si fa a farsi scudo in noi, pavoneggiandoci compiaciutissimi agli occhi degli altri, e rimanere, rimanere aggomitolati poi in una rete fittissima senza trovare dei filtri. Ma una nave di lì passerà nel mare dove si deve annaspar e ci si aggrappa ad essa senza minimi scrupoli. È tanto bella dentro che quando ci siamo viene da sé la netta affermazione, ma questo è un posto da re. La nave va, sempre più costante.